Oggi abbiamo una pubblicazione con supporto LP, per cui ho programmato con suggerimento preciso di Silvia la prima traccia di pubblicazione, il primo brano di pubblicazione, per meglio dire, essendo in vinile, della playlist curata da Silvia Albertazzi e anche Stefano Calanchi, ai quali do il buongiorno. Buongiorno Silvia, buongiorno Stefano. Buongiorno a voi, buongiorno a tutte, buongiorno a tutti. Iniziamo anticipando come last minute quello che ho già portato, che la possibilità di ritirare come premio i libri presentati. Avrete questa sera la presentazione presso Ubic Libreria, via Irnerio 27, ovviamente a Bologna, la nostra presenza, così potremo consegnare a mano ufficialmente, ne approfittiamo per consegnare anche sì. I premi di oggi. Infatti oggi non metto in palio il libro di cui parlo, ma metto in palio il mio libro. Mi sembra giusto, immaginavo un motivo in più, quindi brava Silvia. Silvia Albertazzi, mio padre somigliava a Dustin Hoffman, e intanto che abbiamo dato poi il titolo e l'autrice intuibile per quanto riguarda la presentazione di questa sera, ricordo alle ore 18 siamo al coperto, siamo in libreria, quindi anche se le condizioni meteorologiche sono un po' ballerine non c'è nessun problema, saremo ben contenti di accogliervi. Intanto ho iniziato puntuale questo voltiamo pagina perché di cose da dire ce ne sono tante, oltre che ribadire questo last minuto. Non metti in palio il libro che presenti, giustamente, però lo portiamo in frequenza sui 103.1 e ti chiedo di cosa si tratta. Dunque, si tratta di Caledonian Road di Andrew O'Hagan, editore Bompiani. Adesso ti copio. Cioè, questo è tutti i tempi. Giusto, hai detto la parola giusta, è tutti i tempi. Ed è tanto per cominciare. E copiamo ancora, va nella mia cinquina Pellegrino, che non ho ancora pensato, ma questo ci va senza dubbio. Anzi, per non dire che forse questo è il mio Pellegrino. E poi è tutti i tempi perché? Perché è quel classico libro che quando, tra 50 anni, quando noi non ci saremo più, se qualcuno vorrà capire com'era la realtà, soprattutto britannica e londinese, del 2024, dovrà per forza leggere questo libro, perché è un libro che ti descrive esattamente la situazione com'è adesso nel regno di Carlo. E io infatti sai che è un aspetto che mi chiedo molto, tra 50-70 anni i libri come parleranno della seconda decade degli anni 2000, cioè dal 2020 in avanti, poi... Questo tra... non lo so come ne parleranno i libri di 50 anni. So certo, come ne parla questo. Certo, dovranno andarsi a rileggere questo. Certo. Ecco, questo è quello che gli inglesi chiamano, loro hanno un'etichetta per questo genere di libri, uno State of the Nation novel, cioè un romanzo che ti racconta lo stato della nazione. Sì. Ora, non ce n'è molti, perché di solito i romanzi tendono a fossilizzarsi, o adesso fossilizzarsi è una brutta parola, comunque a raccontarti di una classe sociale, a fossilizzarsi appunto all'interno di una cerchia che normalmente è la borghesia, piccola o media, oppure puoi avere il romanzo proletario, ma un romanzo che ti prende in esame tutti gli strati sociali senza fare un polpettone è abbastanza raro, è molto sì. Raro. Ci sono stati dei casi, direi che ce n'è più o meno uno per ogni decade se va bene, ma non sempre. Questo proprio, mentre era il tipico romanzo vittoriano era fatto così. Cioè il grande romanzo vittoriano alla Dickens o alla Thackeray ti raccontava una situazione, com'era la situazione in un certo periodo, prendendo in esame tante categorie, anche se prendi un romanzo, viene in mente Casa Desolata di Dickens o Il nostro comune amico, tu vedi come in una Londra potevi avere i ricchi, le case dei ricchi, ma straricchi, e poi di lì a un chilometro c'erano i poveri, quelli che dormivano per terra, c'erano le fogne a cielo aperto, e quindi lui ti prendeva in esame tutte queste categorie. Ora, Andrew Hagan ha scoperto che c'è una strada a Londra, che appunto è Caledonian Road, in cui tu che va da King's Cross alla prigione di Pentonville, non è lunghissima, sono meno di 3 chilometri, però in questa strada ci abitano all'inizio, a seconda da dove la prendi, all'inizio ci sono le case georgiane ricchissime, dove ci sono degli appartamenti che costano 9 milioni di euro di sterline, scusa, ma comunque. E poi più ti addentri e più trovi delle situazioni sempre meno benestanti, diciamo, fino ad arrivare ai casermoni popolari. Decisamente meno benestanti. Sì, fino ad arrivare ai casermoni popolari, e soprattutto questa parte, mentre la prima parte è abitata dai personaggi del jet set, oppure dagli aristocratici, che hanno poi anche case nel Suffolk, che hanno anche case in giro per l'Inghilterra, case di vacanza, eccetera. Nell'ultima parte ci stanno prevalentemente immigrati dalla, neanche tanto dalle ex colonie, quanto adesso come adesso dalla Polonia, dagli ex paesi dell'est dopo la caduta del muro di Berlino, diciamo, e da africani, non certo, necessariamente ex coloniali dell'Inghilterra. Quindi c'è questa mistura di gente che naturalmente non si dovrebbe mai incontrare, però finisce che si incontra. Per cui in questo libro tu vedi come ruota tutto attorno a un personaggio e alla caduta di questo personaggio, che quando inizia il romanzo è un opinionista affermato, è uno storico dell'arte che si occupa prevalentemente del periodo rinascimentale, diciamo, ma soprattutto è quel classico personaggio che è invitato a tutti i talk show, che fa un mucchio di soldi facendo anche cose lontane dal suo lavoro, o apparentemente lontane, come, che ne so, reportage di sfilate di moda. Sì, un personaggio pubblico. È un personaggio pubblico. Ha molto visibilità. Molta visibilità, e ci tiene molto. È un individuo che ha una grande vita mondana, ma viene dalla classe operaia, tra l'altro non di Londra, bensì di Glasgow, quindi è pure scozzese. Certo. Ed è sposato con una signora invece della buona nobiltà britannica, ricca, ha un cognato che è un duca, ed essere un duca... Quindi anche l'aristocrazia, sì, via di mezzo. È un duca odioso, però con un sacco di soldi. E poi ha un figlio, ha due figli, un maschio e una femmina. La ragazza è una persona civile, normale, diciamo. Invece il giovane è un DJ, ma non è Willy. Ok, è un DJ che è magari... un DJ di quelli che vanno in giro con lo yacht. Ah, ok, no, non è il mio caso, no, anzi, io sono già fortunato così, non chiedo altro. Quando il padre compie gli anni, ha la bellissima idea di organizzargli un compleanno in Islanda. Ah, ok, così, tanto così, per star vicini a casa. Ma è tanto anche comodo, per spendere poco. E questo... Arriva un messaggio da Rob, scusa. Sì. Beh, questa situazione non è poi un caso isolato, non è così anche Park Avenue e Manhattan, insomma, Sì, però diciamo qui siamo in Inghilterra. Certo, siamo dall'altra parte dell'oceano in Inghilterra caso. Non ce n'è molte di situazioni così. Cioè in Inghilterra, in Londra, diciamo, in Inghilterra sì. E quindi noi vediamo questo personaggio, chiaramente per mantenere il suo tenore di vita e non chiedere nulla alla moglie, perché non vuole chiaramente fare debiti con la moglie, ha preso un sacco di soldi a prestito e ha dei debiti grossissimi, soprattutto con un amico, un suo ex compagno dei tempi dell'università, un suo intimo amico, che è un imprenditore molto spregiudicato. Ora, questo imprenditore poi va a finire malissimo, perché si scopre che Trafficava in uomini, diciamo, che ovviamente faceva venire della manodopera in nero dai paesi più poveri e la impiegava nelle sue fabbriche lui era un imprenditore del tessile, e nelle sue fabbriche appunto tessili nei Midlands. Lui fa i soldi così? Sì, quindi. E poi aveva rubato ampiamente al fondo pensione dei suoi impiegati. E per di più viene fuori anche ciliegina sulla torta che aveva molestato alcune. Lo sospettavo, guarda, con un panorama così. Ma guarda che se poi lo estendi a livello di State of the Nation, ricorda molto qualcosa dell'economia e finanza europea. Sì, tutto sì, ciò. Ma guarda che questo libro si legge proprio pensando anche, sì, ma questa non è solo l'Inghilterra. Esatto, è un po' più esteso in The State of the Nation. E dalla... Il nostro protagonista, diciamo, vorrebbe restituirgli questi soldi, trovandosi appunto impelagato in questi debiti, ha un'idea geniale. Oi. Cioè, dice, io scrivo adesso cosa va di moda? I libri di self-help, i manuali, sì. No? Cioè, allora io scrivo un bel manuale per gli uomini che avvertono la loro fragilità. Siamo in un periodo di fragilità, il maschio in questo momento è in crisi. Fragilità allora, maschile. Faccio un manuale per maschi in crisi, lo vendo, però anonimo. Il mio editore me lo fa fare perché sa che io scrivo bene, lui ha avuto un successo enorme con un libro su Vermeer. Cioè, non deve apparire il mio nome assolutamente, però io faccio questo bel libro che si intitola Perché gli uomini piangono in macchina. Ok. Poi gli viene questa idea geniale, dice, non lo faccio anonimo, lo faccio firmare da un attore importante, un giovane attore di quelli lanciatissimi, che poi lo porta in giro facendo finta che sia suo, quindi gli fa una grande pubblicità, fa dei bei reading. E io guadagno un sacco di soldi che poi ci spartiamo. E dopo riesco a rientrare da questo debito. Tutto bene, l'editore non è proprio contentissimo, però dice vabbè, basta che la cosa... invece è contentissimo l'editore americano, magnifico, qui self-help vanno di gran moda, eccetera. L'attore contento, solo cosa succede? Che quando lo intervistano prima della pubblicazione, quando intervistano l'attore, sto cretino, perché non si può dire altrimenti, comincia a presentare il libro come se fosse una rivincita contro il Me Too. Cioè questo, un libro sul patriarcato, il ritorno del patriarcato, certo. La supremazia maschile, eccetera. La cosa è uno scandalo enorme, sia per la carriera dell'editore, ma soprattutto per il libro che viene la carriera dell'attore, scusa, sia per il libro che viene ritirato dalla circolazione. Addirittura ritirato, ecco. Sì. E da questo momento iniziano i guai di questo personaggio ulteriori, e dopo sarà una rovinosa caduta che appunto nella quale si vengono a intrecciare i casi di dei personaggi più diversi. Ci sono 59 personaggi in questo libro e tutti hanno una loro funzione. Li ha messi all'inizio, tu apri il libro, c'è proprio la lista delle dramatis persone, la lista dei personaggi con l'età e quello che fanno. E quindi questi 59 personaggi in qualche modo vengono a interfacciarsi e si va appunto dall'altissima nobiltà alle gang di strada, certo. Sì, che si combattono tra di loro, i rappers, quelli dell'alta moda, c'è di tutto e di più. L'editoria, la visibilità, certo. La voglia di apparire, il rimediare in maniera così rocambolesca un grande debito, l'illusione e la caduta, cioè vi sono tutti, quasi tutti i contenuti che riportano a un'attualità, sì, non sì, dico, sì. Ma proprio a livello esteso europeo, del contemporaneo. E quindi direi, sì, che il consiglio per gli storici di leggere questo lavoro di Andrew Hagan... Non diciamo, cioè, per gli storici, perché sennò sembra che sia un trattato di storia. No, certo. È un romanzo estremamente leggibile. Cioè, tu quando cominci questo libro vuoi andare avanti. Cioè, è un Tomazzo. sono 650 pagine, più di 600 pagine, però non riesci a smettere, perché vuoi sapere cosa succede. Diciamo che è un po' è il meccanismo della serie TV, se vuoi. Tu ti affezioni ai personaggi, affezioni è una parola grossa, perché non, però vuoi conoscerli meglio. Non c'è un personaggio che sia completamente buono, cioè diciamo positivo. Ce n'è uno, magari ne parliamo dopo, però tu vuoi sapere come va a finire, vuoi conoscere, vuoi saperne di più, insomma. È scritto veramente in una maniera molto molto accattivante. Tu hai portato una formazione in playlist che direi storica. Per allora sì, la playlist segue un filo, come il libro, cioè alterna brani tosti, diciamo, a brani molto leggerini, che hanno sempre come filo conduttore però l'Englishness, essere assolutamente British. E partiamo dai Clash. Partiamo dai Clash perché partiamo da Guns of Brixton, perché in questo libro appaiono anche le pistole di Brixton e non fanno molto bene. Ah no. Qualche scricchiolio di troppo, ma ci sta, in quanto il vinile di un disco storico che è London Calling dei Clash con Guns of Brixton, il primo brano in playlist musicale riportata da Silvia Albertazzi e Stefano Calanchi. Penso sia stata una playlist collaborativa questa. Sì, diciamo che no, vogliamo questa dire è una che... curiosità sì, da sì, poco. Sì, sì. Ma... i brani, diciamo, tosti vengono da Stefano. Hai capito? Pensavo il contrario. Quelli leggerini vengono da me. Ma dai, pensavi il contrario. Sì, decisamente. Pensa un po'. Non c'è proprio dubbio. Andrew Hagen, The Caledonian Road, e non ricordo la casa editrice. Bompiani. Allora, sicuramente lo troverete in esposizione. Sì, in sì, vendita, sì, è appena uscito, per cui è uscito questo mese. È veramente è un libro che consiglio caldamente. Volevo dire un'altra cosa. E questo è un romanzo corale. Per cui sì, c'è al centro questa figura dello storico dell'arte, però ci sono altri 58 personaggi che hanno tutti qualcosa da dire, da fare. Tu mi hai detto che ce n'è uno di cui volevi parlare nella seconda parte. Sì, perché è il personaggio più positivo, diciamo, che è uno studente che si chiama Milo, di madre etiope e padre irlandese, al quale il nostro protagonista si affeziona particolarmente. Questo è uno studente che si è laureato in informatica, però così per suo piacere seguiva questi corsi di storia dell'arte del protagonista, e a un certo punto lui capisce che questo ragazzo ha un'intelligenza molto particolare, molto vivace, e comincia a diventare suo amico anche in maniera quasi eccessiva rispetto a un normale rapporto docente-discente. Lo invita a casa sua per il tè, soprattutto questo ragazzo è un hacker, ma di quelli tosti, preparatissimo si fa un po' insegnare i segreti del darknet. Per cui è questo ragazzo lo introduce a quella che poi sarà in qualche modo la sua rovina, perché poi per fare soldi comincerà a investire, ma soprattutto a speculare in criptovalute. E quindi questo è veramente, scusa il termine, un disgraziato. No, perché... non è un disgraziato. No, ecco. Non il ragazzo Milo, dico il protagonista. Il protagonista è ne ha una dietro l'altra. Sì, ne ha una dietro l'altra, ma è una persona che, come il libro poi farà vedere, si è trovato in un ambiente che non era del tutto il suo. Insomma, è arrivato dalla classe operaia scozzese al bel mondo di Londra, e si è fatto sedurre da questo mondo, senza rendersi conto che bisognava anche tenere un po' i piedi per terra. E lui fa il passo più lungo della gamba. Per di più è stato anche sfortunato, dai, perché lui era il cocco di sua suocera. Sua suocera è persona molto ricca, e quando la suocera muore e lui contava su un'eredità, niente, lascia tutto alla cura degli indiani, degli elefanti d'Africa. Ho capito, ma quante cose che mi ricordano l'Unione Europea in tutto ciò. Guarda, è un libro veramente, ribadisco e ribadiamo, non è un aspetto di saggio storico. No, assolutamente. Però indubbiamente vi è motivo di analisi per tutto ciò. Torniamo al nostro studente. Milo, questo studente, è un personaggio che potremmo definire una sorta di Robin Hood informatico, perché valendosi delle sue capacità di hacker entra nei conti dei ricchi e devolve grandi fondi verso enti benefici, verso chi soffre, un'operazione, eccetera, di filantropia. Ma nel non male. Solo, ma non solo, entrando nei documenti segreti, nelle mail, nei documenti segreti anche dei membri del Parlamento, anche del mitico duca, eccetera, è lui in qualche modo che riesce a tirare fuori tutta la cacca, non mi viene un'altra parola più elegante, certo, tutta la nefandezza. La nefandezza, grazie, che c'è dietro le loro belle facciate pulite. E poi manda tutto a una giornalista che con questo fa degli scoop molto importanti. Questa parte non è... per fare questo libro O'Hagan ha lavorato 10 anni, ha fatto 10 anni di ricerca. Ecco, pensa un po'. Lui diceva, non so, si è trovato a frequentare sia i rapper di strada che gli oligarchi russi, perché hanno una grossa parte, certo, in questo libro, sia appunto gli hacker, eccetera, ma soprattutto questa parte viene da un'esperienza ancora precedente di O'Hagan, che è stato all'inizio degli anni 2000 il ghostwriter di Julian Assange. Ah. Per cui attraverso Assange lui ha conosciuto i segreti in qualche modo degli hacker, ha visto come lavoravano, e come lavoravano i giornalisti che ricevevano queste informazioni. Per cui quando tu leggi il libro, questa parte ti sembra rocambolesca, sembra persino eccessiva. Invece lui ha detto in molte interviste, che si possono trovare anche su YouTube, che queste proprio sono tutte le cose che lui ha imparato quando ha fatto questo libro di memorie come ghostwriter di Assange. Capisco l'idea di portarlo al premio Pellegrino in posizione di rilievo. Sì, è un libro veramente, direi unico, per i nostri giorni. Mentre, come lui dice sempre in queste interviste, l'autore, lui quando per scrivere questo libro, oltre a fare 10 anni di ricerche che l'hanno portato per esempio anche in queste fabbriche tessili di Leicester e dei Midlands, dove durante la pandemia c'è stato il più alto tasso di contaminazioni e di morti per Covid, perché le operaie, tutte donne, che venivano per lo più dal Vietnam o dalla Polonia, lavoravano in condizioni una attaccata all'altra, senza mascherine, in condizioni veramente precarie, e lì c'è stato proprio una moria strepitosa. La madre di questo Milo, che non è un'operaia ma è una maestra elementare, però è una maestra, è etiope, quindi di pelle scura, si ammala di Covid appunto e non viene curata adeguatamente, un po' perché, come tutti ricordiamo, la politica sul Covid inglese fu la più assurda la più negativa del pianeta, e un po' perché quando si trova in ospedale chiaramente le vengono preferite, diciamo, altre persone di pelle bianca. Sì, quindi vi è anche questo aspetto di denuncia. C'è un grosso aspetto di denuncia del razzismo inglese che non è morto, insomma, che c'è sempre stato e che continua. Quindi quando questo personaggio, Milo, comincia a fare le sue imprese, lo fa anche in qualche modo per vendicare la madre. Allora, intanto rispondiamo a Sandro, che ha scritto al 333-180-9494, ultimo brano per questa presentazione, poi andiamo in stacco musicale e quiz. Buongiorno, scusate ma non ho capito il titolo del libro, grazie da Sandro. Caledonian Road. Andrew Hagan, edizione Bompiani. Caledonian Road, Andrew Hagan per la... O'Hagan. Perché lui è un scozzese ma di origini irlandesi. O'Hagan. E ci tengo a dirlo, anche lui viene dalla classe operaia di Glasgow come il suo protagonista, però forse è un pochino più intelligente, speriamo per lui. Speriamo per lui, ovviamente, e direi di sì comunque. Allora, non sarà il libro in palio, ma lo trovate da Ubik, ovviamente, sì, sì. Lo trovate anche in playlist Pellegrino per il 2024. Questa sera per voi, Mio padre somigliava a Dustin Hoffman, poesia e Silvia Albertazzi, un lavoro che ho letto, un lavoro che ho già presentato in frequenza. Questa sera sarà presente invece alla Ubik, Viernerio 27, alle ore 18. Detto questo, il quiz per avere il libro di raccolta poesie che ho appena portato in frequenza. Dimmi tu. Dunque, il quiz secondo me è molto semplice. Abbiamo detto che il protagonista di questo libro è uno storico dell'arte che ha avuto un enorme successo con un libro su Vermeer. Ora, circa una ventina d'anni fa ebbe un enorme successo un romanzo che prendeva il titolo da uno dei più famosi quadri di Vermeer. Poi ci hanno fatto anche un film dopo. Certo. Venne anche a Bologna con una mostra. È vero, venne anche a Bologna con una mostra. Quindi io vorrei il titolo di questo romanzo, film, mostra, eccetera, e quadro. O anche titolo dell'opera di Vermeer. Tanto è sempre quello. Brano che potremmo presentare in due parole prima della pubblicità. Il brano è un brano che vi dà proprio l'atmosfera dell'aristocrazia inglese che prende il tè. Would you care to sit with me for a cup of English tea? Very twee, very me, any sunny morning. What a pleasure it would be. chatting so delightfully. Nanny bakes fairy cakes every Sunday morning. Miles and miles of English garden stretching past the willow tree. Lines of hollyhocks and roses listen most attentively. Do you know the game croquet? Peradventure we might play. Very gay, hip hooray, any Sunday morning. As a rule, the church bells chime when it's almost supper time. Nanny bakes fairy cakes on a Sunday morning. Cattivo in effetti, questo sì. È scuro. Nine, leggo solo. Sì, non ne so nulla, credo che non ne sappia nulla neanche Stefano che l'ha comprato. Però lo metteremo in playlist. È un gruppo, sì, certo. Il brano si chiama London Gangs ed è... Ci sta, assolutamente. Beh, invece, vogliamo dire chi era quello di prima? Giusto, giusto, vai Silvia, scusa, molto bello tra l'altro. È molto non carino. Non solo nobile, ma è molto io carino. Io lo adoro, era Paul McCartney, English Tea. È un baronetto. Dal suo disco Chaos and Creation in the Backyard. Scrive Gianluca, ma non è lo stesso Gianluca di prima. Buongiorno Gianluca, ci mancherebbe, questa omonimia non limita certo il mio abbraccio, anzi il nostro abbraccio. La ragazza dall'orecchino di perla, risposta esatta, non vi vinco di certo il libro e non riuscirei neanche a venirlo a prendere purtroppo stasera. Bravissimi, grazie Gianluca. Ma il podio inizia da questo momento con Luigi che dà risposta esatta ma arriva terzo. In seconda e vincente posizione è, un attimo solo, Francesco, grande Francesco, già conosciuto al Comini Express binario 69. Ti aspettiamo questa sera ovviamente alla libreria Ubic per la consegna e l'ascolto, anche la partecipazione alla presentazione del lavoro di Silvia. Speriamo che non venga solo alla fine per il libro. No, certo, ma non glielo diamo ovviamente in questo caso, perché è arrivato secondo. Dai, sto scherzando, ci mancherebbe, non siamo siamo così severi. Ci sono poi io che sono poliziotto buono in questa coppia, eh. Solo per la Gloria, che evidentemente è una vicina di casa del nostro Andrea, che spesso scrive per la Gloria, consegneremo a Gloria, certo, quindi questo lavoro, la ragazza con l'orecchino di perla. Apprezziamo molto questo tuo aspetto sportivo. A meno che, come dicevo prima, scherzando, maliziosamente fuori onda a Willy, a meno che Andrea tu non lo dica, perché proprio delle poesie non mi frega niente, quindi lascio il posto a qualcun altro. Non credo. No, correttissimo, dice, ho vinto la settimana scorsa. Quindi guarda, è vero. A questo punto mi ricordo, noi ci inchiniamo davanti a questa correttezza. Bando alle ceglie, procediamo con l'americano tranquillo. Tra l'altro questa mattina ho detto, Graham Greene, di lui leggete tutto, questo va da sé, è il lavoro che esce per Sellerio Editore, di questo gigante del Novecento. Sarà nato nei primi del Novecento, così a spanne. Ho guardato la data di nascita, 1904. Wow, 2024-1904 è una ricorrenza tonda. Poi guardo la data, giorno, mese di nascita. È nato il 2 ottobre 1904, oggi. Quindi il caso non esiste, e portiamo, anche se da altra dimensione, i nostri auguri a Graham Greene. L'americano tranquillo esce in seguito tra il lavoro che è La gente all'Havana, Fine di una storia. Sto citando un po' altri capolavori di Graham Greene, che ha una forza nell'ironia e nel portare pagine di grande scrittura per dare quello che nell'inquietudine di una spy story, che poi unicamente spy story non è, una profondità poetica veramente molto intensa. L'americano tranquillo è così tranquillo? Abbiamo qualche dubbio. Intanto lui riceve un monito dopo questo lavoro dagli Stati Uniti d'America, viene dichiarato cittadino non grato agli Stati Uniti d'America, in quanto un americano tranquillo è una chiara denuncia a quello che sarà a breve, dopo la guerra di Indocina, cioè la guerra del Vietnam. E lui ne dà un'anticipazione con questo lavoro, per cui a questo punto abbiamo un aspetto storico importante anche nel libro da me presentato. Io sono classe 69, da bambino spesso sentivo la guerra del Vietnam, ma certamente è qualcosa che quelli della mia generazione hanno sfiorato, se non che poi conosciuto. Per averne un approfondimento ulteriore, partendo dalla guerra di Indocina e dal Vietnam stesso, di cui appunto è palcoscenico il lavoro che sto presentando, ne è sicuramente un motivo ulteriore di approfondimento. Romanzo psicologico d'azione, così l'ho definito, storie con triangolo amoroso che sono presenti all'interno di questi spionaggi e controspionaggi, ricordando che lo stesso Graham Greene è stato una agente dell'MI6, persona molto particolare, oltre che dotato di talento letterario, soffriva di disturbi bipolari. Tra l'altro, ben comprensibile, pensate che il suo osservatore, diciamolo in maniera immediata, il suo capo dell'MI6, con cui stringe anche un'importante amicizia, si scopre in seguito che era un agente di controspionaggio doppio giochista con l'Unione Sovietica. Quindi pensate, certe cose esistono solo nei film? No, esistono nella realtà. E questa trasposizione letteraria, che dà citazione in ogni lavoro di Graham Greene, oltre che una capacità di portare tutto ciò anche l'ironia e il sorriso, è veramente una capacità ulteriore. Il nostro agente a L'Avana, Il terzo uomo, Fine di una storia, tutti libri di un autore di cui, ribadisco, di lui leggete tutto. È un romanzo che porta a un triangolo amoroso. Vi sono due personaggi dagli Stati Uniti d'America, uno che ne è il narratore anche di questa storia, è un, per così dire, un giornalista, ecco, inglese, coinvolto nella guerra di Indocina come operatore e come osservatore, ecco, per meglio dire. Ha una relazione con una ragazza del posto e, a quanto pare, ed è così, diciamo, un po' scavezzacollo per quanto riguarda l'incarico che gli è stato assegnato, e pare che il suo interesse, bene, veramente importante, sia per questa bellissima e misteriosa, è il personaggio che affascina di più, ragazza che ha un ruolo fondamentale nella stesura di questo lavoro. Poi arriva Pyle, giovane americano inviato in Vietnam in questo caso per manovrare gli eventi a vantaggio degli Stati Uniti d'America e portare quella che viene definita la democrazia, quindi quanti riferimenti anche ai giorni nostri, idealista e innocente e ferocemente innocente, ecco la definizione che più mi viene da portare al personaggio di Pyle. Vuol portare alla salvezza il Vietnam, abbiamo visto in che modo poi arriverà la salvezza in Vietnam, abbiamo visto anche quello che è un'idea di questo innocente personaggio nella sua ferocia di essere a sua volta innamorato della ragazza che già è nelle attenzioni di Fowler, il protagonista a cui ho dato il via alla presentazione. Triangolo amoroso, situazione di politica internazionale, attentati, aspetto bellico dove l'importanza di queste presenze diventano protagoniste anche nello scacchiere internazionale, denuncia da parte di Graham Greene per quello che sarà da lì a breve, cioè il Vietnam del Nord praticamente occupa in maniera indipendente il territorio, da lì in seguito vi sarà l'entrata in guerra ufficiale degli Stati Uniti d'America. Con le parole che ho portato di Pyle, no? Con questa ferocia per portare la democrazia, una parola che più volte sentiamo abusata anche nel contemporaneo, e tra l'altro tutto ciò all'interno, come vi ho detto, di un contesto molto particolare. Graham Greene ne dà una storia di denuncia, oltre che di attenzione, con la sua solita ironia tra questa realtà di sentimento in un contesto tragico di guerra, un finale aperto, oserei dire, che lascia poi intendere quello che sarebbe successo da lì a poco. Arriva ovviamente la denuncia dall'establishment degli Stati Uniti d'America, che diranno è persona assolutamente non grata all'Occidente e agli Stati Uniti d'America. Tutto ciò riportato in questo americano tranquillo, che come tranquillo lascia poi a noi decidere se è tranquillo o meno e in che modo è tranquillo. E il lavoro è edito da Sellerio Editore. Già pubblicare lavori di Graham Greene è un impegno importante, onore al merito per la Sellerio che ne sta facendo uscire una collana molto molto completa. A questo punto io mando un brano, preparo il quiz e poi dopo per voi, per avere questo secondo me capolavoro, l'ennesimo che viene pubblicato da Sellerio, l'autore Graham Greene, l'americano tranquillo. disse questo per avere l'americano tranquillo di Graham Greene. Lui è un grande eroe, è stato patriota, fondatore del Partito Comunista del Vietnam del Nord, principale leader per quanto riguarda il respingere gli Stati Uniti d'America nella tremenda guerra del Vietnam. È una figura fondamentale per la storia, è un'icona. Beh, chiedo il suo nome. Lui conquista appunto Saigon, la città prenderà il suo nome addirittura. Colui che cerca l'illuminazione è la traduzione dello pseudonimo che lui sceglierà dopo essere stato incarcerato dalle forze occidentali. Beh, chiedo queste tre parole che non sono sole, amore e cuore, ma sono ben di più, sono il nome di questa icona, di questo grandissimo leader che è una figura fondamentale per la storia e per quello che è successo nella cruenta guerra del Vietnam. Attendo la risposta al 333 180 9494, l'americano tranquillo Graham Greene. Stasera ore 18, libreria Ubik, Viernerio 27, ok Francesco? È da tanto che ci prova, è da tanto che arriva secondo, sono ben contento di dare a Dino della Bolognina questo premio, esattamente, Ho Chi Minh, scritto proprio correttamente con la H finale. Arriva un attimo dopo, un minuto dopo, però ti invito ovviamente a partecipare ai nostri quiz. Gianluca arriva secondo in questo caso, Dino dalla Bolognina è il vincitore con la risposta esatta, Ho Chi Minh, per avere l'americano tranquillo. Giovani disponibili per donne senza età, giovani divisibili, c'è chi ci sta e chi non ci sta, giovani capelli al vento, ma quale vento dentro al bar? Chi dice che non è vero, che fumare fa male, che domani sei bello, possiamo andare al mare. Dava, dava, dava, dai, intanto Figaro si taglia i capelli e si consiglia tagli corti. Mio padre somigliava a Dustin Hoffman, Silvia Albertazzi questa sera, libreria Ubik, perché ho messo questo brano di Luca Carboni, oltre che per augurare un'immediata ripresa all'amico Luca Carboni. Perché Dustin Hoffman non sbaglia mai un film. Le nostre donne stanno qui, ma non ci bastano più. Ce ne vorrebbero altre con qualcosa in più. Giovani disponibili è il titolo del brano, ma il titolo di tutto l'LP è Intanto Dustin Hoffman non sbaglia il film. Mio padre somigliava a Dustin Hoffman ed il resto il titolo. Per saperne di più questa sera ore 18. Abbiamo terminato, Silvia. Grazie a questo punto. Bene. Intanto che diamo appuntamento oltre che a questa sera, mercoledì prossimo. Ringraziamo. Vogliamo Stefano dire Calan. Che ci sarà il video, che se lo possono vedere sulla pagina della sul sito di Radio Città Fujiko, e troveranno anche la playlist. E che, come potete ben sentire questa sera, anche vedere, Silvia Albertazzi gode di ottima salute e ne siamo ben contenti. Appuntamento a domani con il Breakfast Club, doppio appuntamento in mostra. Un caloroso abbraccio da Silvia Albertazzi e da William Piana. Ciao.